mezz'ora di passo sostenuto al giorno toglie la caldana di torno. Sforneremo dei proverbi da questa trasmissione che non oso neanche immaginare. Radio 24, buongiorno, sono Rosa. Sì, buongiorno. Allora, sono contento di aver superato la barriera, Rosa. La vostra radio è formidabile, si riesce a parlare. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. La crisi ha cambiato la nostra vita, ha invaso i nostri sogni e la nostra voglia di sognare. Parliamo di sogni ad occhi aperti, di sogni ad occhi chiusi, di sogni rimasti nel cassetto, perché il sogno è parte essenziale della nostra vita, ci aiuta a vivere e a sopravvivere anche alla crisi. Con noi oggi Luigi Ballerini, medico, scrittore e psicoanalista freudiano. Buongiorno. Oh, buongiorno, buongiorno. Ma noi sappiamo che la realtà ha un effetto sul nostro pensiero e i sogni in fin dei conti sono pensieri, sono i pensieri che facciamo di notte. Allora la prima domanda che mi viene da porci è: ma questa realtà che è cambiata poi ha cambiato anche i nostri sogni di notte? E poi può darsi che abbia cambiato anche la nostra possibilità di o volontà o disponibilità a fare dei progetti, e non sono solo i progetti ma a medio, lungo termine, che magari richiedono un investimento economico, finanziario, ma anche proprio dei progetti di vita, anche piccolini. Chissà se è cambiato qualche cosa. 800 24 00 24, sognate e sono cambiati i vostri sogni, fateci sapere. E a volte non ci ricordiamo che anche la crisi economica che stiamo vivendo nasce da molto lontano, negli Stati Uniti, proprio dalle promesse di realizzazione di alcuni sogni. Il sogno di una casa, anche se a volte questo sogno è stato raggiunto negli Stati Uniti grazie a finanziamenti concessi senza troppe condizioni. In Italia invece ottenere un finanziamento non è sempre così facile, oggi lo è ancora meno e negli ultimi anni è diminuito il numero delle persone che scelgono di accollarsi qualche rata per realizzare anche un piccolo o grande sfizio. È così, Roberto Anedda, direttore marketing di Mutui Online e Prestiti Online? Sì, buongiorno a tutti. È vero, c'è da dire che in realtà gli italiani da sempre sono sempre rimasti con i piedi per terra per quanto riguarda i finanziamenti legati ai propri sogni, e quindi i sogni e i finanziamenti si concretizzano soprattutto sui beni più importanti della famiglia: la casa innanzitutto, il bene sicuramente più importante, e poi l'auto, perché è un'altra spesa che effettivamente può pesare sul bilancio familiare. Molto meno si sono diffuse nel tempo le spese su più voluttuarie, diciamo, anche se non c'è chi non rinuncia a finanziarsi addirittura per acquistare l'ultimo modello di tablet o telefonino, però fortunatamente sono una minoranza. Certamente i tempi della crisi attuali accelerano a volte la richiesta di prestiti anche per far fronte a delle difficoltà, però oggettive, ripeto, non tanto voluttuarie quanto legate alle difficoltà momentanee della famiglia. E allora 349-238-6666 per raccontarci con un sms qual è il sogno che vorreste realizzare, per cui sareste anche disposti a chiedere un prestito, o in generale raccontateci qual è il vostro sogno nel cassetto, un viaggio, un lavoro che vorreste fare o cambiare. Raccontatecelo se volete anche su Facebook o su Twitter qual è il vostro sogno a rate, ce lo scrive già Bea. Un sogno professionale è avere un finanziamento. L'ascoltatore che o l'ascoltatrice che ha colto già perfettamente lo spirito del nostro programma parte di questa mattina. Un libro, esatto. E poi chiederemo ai nostri ascoltatori qual è appunto il vostro sogno ricorrente. Io ad esempio so, Nicoletta, che tu ne hai uno, ma forse è diventato da qualche settimana un incubo che fai a causa della donna di Cuore Denari, donna di denari, anzi, della nostra trasmissione. Deborah, sì, non è l'incubo della barriera rosa che vi invitiamo come ogni giorno a sfidare. Ieri mi sembrava di sognare, ma adesso sono di fronte alla dura realtà. Oggi c'è la lezione di risparmio e questo è vero, il mio incubo. Devi fartene una ragione. Però sai che cosa ho scoperto, dimmi, Deborah? Tutto. Che con l'ultima legge di stabilità i piccoli risparmiatori, come sarei io, suppongo. Anche io, guarda, sono molto alta ma piccola risparmiatrice. Viene applicata una nuova tassa. Tu e il nostro professor Lupotto, secondo me non me la raccontate giusta. Dopo il GR delle 12 vi chiederò io, conto, come si dice, in ragione, altro che a realizzare i sogni. Se scopro che con i soldi investiti devo anche pagare più tasse, questo altro che sogno, è una bella doccia fredda. Vedrete. Ti faremo un po' arrabbiare, ma ti tranquillizzeremo anche. Essere e benessere. Il sogno è questo. Saremo finalmente felici quando avremo raggiunto i nostri obiettivi. Trovare un uomo e finire la specializzazione. Questo è il sogno. Poi lo si realizza. E se siamo umani, cominciamo subito a sognare qualcos'altro. Iniziamo dai sogni ad occhi aperti, trascurati dalla psicoanalisi a favore di quelli ad occhi chiusi. Forse la crisi ha un po' spento la nostra voglia di sognare, la paura ha minato il nostro ottimismo, l'incertezza, la nostra fiducia. Dottor Ballerini, la crisi ci riporta coi piedi per terra, ci spinge a guardare la realtà con altri occhi e i sogni cedono il passo alla concretezza. Un'inversione di rotta che è sicuramente faticosa, ma è necessaria. Ma in realtà la psicanalisi non ha trascurato i sogni ad occhi aperti, li ha chiamati per quello che sono, li ha chiamati fantasie. Allora, io credo che il primo contributo che possiamo dare è sapere distinguere quello che è un desiderio da una fantasia, che la fantasia è molto simile all'illusione. Allora, sempre restiamo sul mio terreno, Freud ha scritto che il principio di piacere deve sottostare al principio di realtà. Allora, la questione del principio di realtà è fondamentale e, come abbiamo anticipato prima, è inevitabile che il nostro modo di pensare e anche di desiderare sia influenzato dal principio di realtà e quindi da quello che ci sta accadendo. Certamente è accaduto che c'è uno spostamento, ma in fin dei conti sempre da sempre l'uomo è stato costretto a fare i conti con la realtà. Allora, la realtà che è modificata comunque ci chiede, e secondo me la prima cosa che noi possiamo chiederci è: ma quello che mi piace o mi piacerebbe è realizzabile, è possibile, è raggiungibile, oppure è davvero una fantasia? Perché se è una fantasia, un'illusione, non è che devo rimandarla indietro, ma la tratterò per quello che è. Ad esempio, non ci investirò tempo, non ci investirò energie, risorse personali e persino soldi. Quindi proviamo ad adottare lo schema suggerito dal dottor Ballerini, proviamo a pensare o a raccontiamoci un nostro sogno ad occhi aperti, un nostro progetto, e cerchiamo di analizzarlo secondo le indicazioni del dottor Ballerini per capire se è una fantasia oppure se è un sogno che si può avverare, su cui possiamo investire. Quindi ci portiamo verso la concretezza, dottor Ballerini. Se si fanno dei progetti concreti, se si coltivano le proprie ambizioni, se ci si dà da fare con umiltà, se si aguzza l'ingegno, i sogni diventano realtà. Banana Yoshimoto. E a proposito di realtà, la crisi ha cambiato le nostre priorità e anche le destinazioni dei nostri soldi. Mi viene in mente che fino a qualche anno fa sicuramente si aspettava con grande ansia questo periodo, si avvicinava il Natale, arrivava la tredicesima e con questa somma avremmo potuto chissà farci quale tipo di regalo, magari il cappotto di marca oppure tanti regali per tutta la famiglia. Adesso invece, con questa entrata extra che arriva a dicembre, si pagano le bollette che sono rimaste in arretrato, la rata del mutuo, Roberto Anedda, che è rimasta in arretrato. Ma in ogni caso, appunto, il tema del mutuo è quello del mutuo, del prestito, dei finanziamenti in termini generali che affrontiamo questa mattina per realizzare anche un sogno. A quali sogni hanno rinunciato gli italiani, appunto, se lei considera questo parametro, appunto il parametro del finanziamento? Purtroppo in questi anni la crisi ha, proprio l'abbiamo detto più volte anche da questi microfoni, portato a una riduzione progressiva delle richieste e delle erogazioni di finanziamenti, sia dal lato dei mutui che dal lato dei prestiti, quindi con impatti importanti anche sui mercati ad essi legati, la casa da una parte e le auto appunto dall'altra. Sogni più grandi o sogni più piccoli ai quali le famiglie si trovano a dover rinunciare o a doverle rimandare, forse anche per quel principio di realtà che dicevamo adesso, cioè si rendono conto che il momento è difficile. E per quanto sia sempre un sogno cambiare l'auto, addirittura cambiare casa, avere una casa più grande, una stanza in più, lo si vede sempre più come un sogno, come qualcosa da rimandare nella speranza che c'è sempre, che un domani le cose vadano meglio, ma al momento bisogna invece fronteggiare una situazione che magari è difficile. Fortunatamente non riguarda tutte le famiglie, ma certamente i dati mostrano come in questi anni la crisi abbia impattato da questo punto di vista. Certo, bisogna guardare, come dire, la questione anche da un altro punto di vista, che è quello del sistema del credito, che ha comunque stretto i cordoni della borsa negli ultimi anni, obbligando anche alla rinuncia di questi sogni. No, esattamente, Anedda. Sì, ma sempre un po' legato alla crisi, la difficoltà degli istituti di credito, le sofferenze in aumento hanno fatto sì che aumentassero i criteri di prudenza e di restrittività da parte degli istituti stessi, e questo alla fine rappresenta barriere in più all'ingresso sul mercato dei finanziamenti per un numero maggiore di famiglie rispetto a una volta, soprattutto purtroppo negli ultimi anni anche per i giovani. Certo. Sia per i loro contratti o per il tipo di reddito che hanno. Tanti vogliamo leggere, sì, alcuni sogni che ci state raccontando al 349-238-6666, ma intanto poi abbiamo anche, li sentiremo a voce, dal diretta voce di Cristina da Milano, Remo da Teramo e Gianni da Como. Allora, Stefano vuole da Ascoli, vorrebbe un finanziamento per una nuova attività. Mm-hmm. Oppure da Simone da Verona, il sogno di ottenere un finanziamento per diventare pilota elicotterista, la cui formazione costa moltissimo, ma soprattutto sogna di avere il coraggio di intraprendere questo percorso e cambiare vita. Dottor Ballerini, doppio sogno. Mi piace molto l'idea di un sogno che in fin dei conti richiede un investimento, quindi il finanziamento è per un investimento, non è per il possesso di un oggetto, perché noi abbiamo poi la tirannia del possesso, fascinati dagli oggetti. In realtà un finanziamento perché io poi possa realizzare un qualche cosa che mi darà soddisfazione e mi darà anche reddito e magari superiore a quello attuale, è certamente un bel esempio di sogno e un bel esempio di richiesta, mi sembra. Mm-hmm. No, volevo chiedere a Roberto Nedda se capita anche, se lo monitorate con prestiti online, che vi facciano anche delle richieste di prestito per avviare nuove attività professionali, appunto, oppure sì, c'è sì, solamente il prestito per l'auto piuttosto che per risolvere altri problemi. No, per quanto i prestiti legati all'auto o alla casa siano certamente la maggioranza, quasi l'80% delle richieste, ci sono poi anche richieste per appunto corsi professionali, avviamenti a nuove attività, come quella dell'elicotterista, che è sicuramente molto è molto onerosa, lo dice l'ascoltatore, sì. È onerosa, o addirittura l'avvio di nuove attività come l'attrezzatura di uno studio professionale con materiale tecnico di vario tipo. Vogliamo sentire Cristina, che ci chiama da Milano, e poi Remo e poi Gianni, facciamo una carrellata di ascoltatori. Brava, Cristina, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque, io telefonavo perché ho 53 anni e intorno ai 47 anni ho avuto un problema di lavoro, per cui ho dovuto interrompere l'attività che facevo prima, che era comunicazione finanziaria, e quindi non ho lavorato per un anno per cercare di costruirmi un'altra professione. Sì. E, io ho sognato per tutta la vita case. Quindi sognavo sempre questi appartamenti, varie città del mondo, insomma, alla fine, quando quell'anno sì, non sapevo più che fare per il mio lavoro, ho deciso di sostenere l'esame di agente immobiliare, mi sono iscritta là e da 7 anni sono agente immobiliare. E quindi lei sognava ed è diventato il suo lavoro. Grazie Cristina, ne parleremo tra poco. Remo da Teramo. Non sognava i mutui, però, per fortuna. Remo? Buongiorno. Buongiorno Remo, sta bene? Buongiorno, benissimo, grazie, complimenti per la vostra trasmissione. E vai! Meno male. Dai Remo. Allora, io ho 66 anni, sono un pensionato, agente di commercio, e non so, per sogno con grande piacere gli anni passati nel lavoro, quindi sogno la clientela, il cliente, ricordo tutto, ed è veritiero, cioè... Il sogno è fatto di cose concrete, l'approccio con la clientela. Io giravo tutto l'Abruzzo e il Molise e un periodo che va dai 25 ai 35 anni sogno continuamente questo rapporto con la mia clientela. Non so, un po' nostalgico. Forse un po' le manca, infatti. Forse un po' manca. Andiamo a Gianni da Como. Pronto? Gianni. Sì, buongiorno. Eccola qua con noi. Il sogno di Gianni. Vada, sì, Gianni. Io naturalmente faccio professione nel campo della meccanica. Di notte mi sogno di fare un prodotto innovativo. Il giorno dopo lo realizzo. Il suo datore di lavoro, spero che la spalmi anche di quattrini e di riconoscimenti, Gianni, o no? No, ma io vorrei capire perché questa cosa che fa impazzire. Comunque lui non ha proprio nessun tipo di obiettivo economico rispetto a questo sogno. Allora, Gianni, mi stupisco che si stupisca. Un prodotto creativo è un'idea, e un'idea è un pensiero, e l'ha pensata di notte. Guardi che il sogno, anzi il sonno, ma anche il sogno è un'esperienza bellissima, perché è l'esempio di un lavoro riposante. Nel senso, noi ci stiamo riposando, ma il nostro pensiero continua a lavorare. Il nostro pensiero associa, condensa, a volte camuffa, ma produce anche. E le idee che le sembra di avere come un guizzo al mattino, spesso sono frutto di una rielaborazione che accade di notte. Quindi non si stupisca e dorma bene, che vedrà che ne trae vantaggio sia lei che anche il suo datore di lavoro. A vedere che possiamo farci pagare per dormire. Vedi che arriva qua, sempre lì. Qua, eh? Io ti porto gli uomini di denari e qua ti danno subito track l'idea per concretizzare. Mentre Remo che sogna il suo passato e la nostra ascoltatrice che ha sognato tante case ed è diventata agente immobiliare, dottor Ballerini, allora, coincidenze? Può darsi che siano coincidenze, può darsi no. Sulle case dico solo che nella simbologia del sogno la casa, come tutti i contenitori, scatole, cassetti, automobili, scarpe, sono simboli femminili, quindi ha a che fare con l'essere donna, sognare una casa, e poi può darsi che abbia tratto spunto anche da questo nel diventare immobiliarista. Mentre Remo, se il sogno è la realizzazione di un desiderio, come infatti è il ricordo piacevole delle esperienze con i clienti, che per come le raccontate certamente sono state gradevoli e di grande soddisfazione, è la ripetizione nel sogno di un'esperienza di piacere avuta durante il giorno che è diventata la sua memoria. Allora, scusate che mi stavo strozzando. Marco ci scrive: per realizzare i sogni, torno invece a Roberto Nedda con un'altra domanda, mi è toccato fingere di comprare mobili, altrimenti niente nuovo prestito. Allora, evidentemente Marco è andato in banca per chiedere un prestito di liquidità, quindi aveva bisogno proprio di soldini, liquidi, ha dovuto fingere invece di sottoscrivere un prestito finalizzato. Sì, che ne pensa di questo caso? Questo a volte succede proprio per il fatto che la liquidità è considerata come richiesta da parte degli istituti più rischiosa e quindi i tassi che vengono applicati sono anche abbastanza più elevati, mediamente sopra il 10%, contro magari tassi del 6, del 7% legati all'auto o altre finalità. E quindi questo a volte porta qualcuno a fingere, tra virgolette, come ha fatto anche Marco, di chiedere soldi per una finalità diversa. C'è da dire che la cosa è un po' rischiosa nel senso che spesso gli istituti comunque fanno un minimo di istruttoria, di analisi, e anche solo da alcune domande hanno ormai l'esperienza spesso per identificare. Oppure magari c'è stato anche un dipendente di banca disponibile che gli ha dato diciamo questo suggerimento. Sì, diciamo che esatto, in molti casi se si capisce che l'operazione e la persona non sono a rischio, si fa figurare magari l'operazione in modo da concedere il finanziamento senza particolari problemi. Insomma, la crisi veramente ci ha manifestato diverse sfaccettature anche sul tema dei prestiti, Nicoletta. E se i vostri sogni vi mettono in crisi, volete saperne di più, continuate a chiamarci, superate la barriera rosa all'800 24 00 24. Noi come sempre apriremo le librerie di Essere Benessere e di Salvadanaio, che si sono fuse in cuore denari per farvi arrivare a casa libri da sogno, possiamo libri dire. Guide del Sole 24. Sì, adesso vorrei vedere quella su, non lo so, i finanziamenti per ristrutturare la casa, se no, è un libro da sogno, però insomma ognuno può considerarlo anche così. Cuore e denari. Wall Street ha cominciato a raccogliere i pagamenti dei mutui per le case e a rivendere parte di quei pacchetti a degli investitori che hanno reinvestito e hanno fatto tanti soldi. Così gli investitori hanno cominciato a dire: avanti, dateci altri soldi. Gli istituti di credito avevano conferito prestiti con buon credito, ma poi hanno raschiato il fondo abbassando i criteri di aggiudicazione. Se prima serviva un valore creditizio di 620 e una caparra del 20%, adesso basta un valore di 500 e nessuna caparra. E l'acquirente, la persona comune, pensa che gli esperti sappiano quello che fanno e si dice: se la banca vuole prestarmi dei soldi, vuol dire che possono permetterselo. Le banche sanno bene che le garanzie che poggiano sulle uova sono rischiose. Così, per contenere i danni, le banche hanno stipulato polizze assicurative. Se i mutui fossero falliti, le assicurazioni avrebbero pagato. Default swap. Le banche che hanno assicurato le potenziali perdite hanno eliminato i rischi dai libri contabili. L'AIG pensava che il mercato immobiliare sarebbe cresciuto, invece è sceso. I prezzi delle case sono scesi. Il poveraccio che aveva comprato la casa dei suoi sogni ha visto il tasso del mutuo esplodere, l'importo delle rate crescere. Il default. I mutui cartolarizzati affondano e l'AIG liquida gli swap. Tutti, in tutto il mondo, nello stesso momento. Non avete sbagliato trasmissione, siamo di nuovo tornate a Cuore e Denari. Ancora buongiorno da Deborah Rosciani e da Nicoletta Carbone. Era Too Big to Fail, un film molto famoso che racconta l'origine della crisi nella quale siamo ancora in questo momento, partita nel 2007 negli Stati Uniti perché Roberto Anedda, le banche erano molto generose e davano credito a tutti coloro che volevano realizzare il sogno della casa, che è il tema del quale parliamo questa mattina. Realizzare un sogno o sogni di giorno, Nicoletta Carbone, sogni di sogni notte. Sogni di notte, a volte il sogno che vogliamo realizzare ad occhi aperti ci toglie i sogni che possiamo fare ad occhi chiusi. Ecco. È proprio quello che è successo, che tutti, l'eccesso di sogni da un lato dell'Atlantico purtroppo cancellato per diversi anni e tuttora li cancella i sogni di tanti altri abitanti di quest'altra parte dell'Atlantico. Però il sogno della casa rimane ancora il sogno di tutti, soprattutto degli italiani, anche se da qualche tempo appunto le banche danno meno finanziamenti per realizzare questo sogno. Il mercato immobiliare non sta scendendo molto, molto come è successo invece negli Stati Uniti, per cui realizzare questi sogni è un po' più difficile rispetto al passato. Ma ricordando un po' le statistiche del passato, Roberto Anedda, quali sono i sogni più stravaganti che attraverso un prestito hanno realizzato gli italiani? Perché vi ricordo che c'è stata una fase in cui c'era una grande richiesta anche per fare le vacanze. Sì, negli anni d'oro, diciamo, dei prestiti, fino a 4-5 anni fa, al di là appunto delle finalità principali, si affiancavano anche altre finalità, diciamo, più voluttuarie. Da quella, ad esempio, di fare un bel matrimonio, una bella cerimonia, un viaggio particolarmente lussuoso, un trattamento di benessere. A proposito, perché vedi che guarda me? Ah, beh, certo, non guarda mica me. Per dire, no, potresti. Particolarmente rilevante, quindi sicuramente c'era una varietà di scelte, di sogni. Evidentemente anche di desideri. C'è l'ascoltatrice che invece deve comprare la caldaia, deve spendere 2.500 euro, un sogno che ha ben poco a che fare appunto con il benessere o con le vacanze, però dice: vado in banca, vorrei chiedere un prestito finalizzato perché è meno costoso, e invece la banca dice: è troppo bassa questa cifra, ti do un prestito di liquidità. È corretto questo atteggiamento, Anedda? Non sarebbe corretto, però è purtroppo la prassi. Spesso su cifre molto basse gli istituti considerano comunque la somma come una somma di liquidità, proprio per il fatto che, essendo così piccola la somma, viene da valutare che se la persona che lo richiede non ha neanche quella disponibilità, potrebbe essere un profilo di credito a rischio, e quindi, al di là del fatto che sia poi finalizzata una spesa specifica, il fatto di non avere 1.000, 2.000 o 3.000 euro da parte, diciamo così, per quella spesa imprevista, fa sì che la banca consideri questo soggetto più rischioso. Quindi bisogna chiedere tanto. Già che chiediamo, compriamo una caldaia più grande. Bisogna chiedere tanti soldi. Brava, se dobbiamo, brava, li chiediamo. Intanto abbiamo Giulio da Trieste, Marina da Roma, Lorena da Modena. Li sentiremo tra poco. Voi continuate a scriverci, a chiamarci per parlare dei vostri sogni ad occhi aperti, per raccontarci quale avete realizzato e a quelli a quali avete rinunciato, perché il sogno rappresenta una parte di noi, della nostra vita cerebrale, affettiva ed emotiva. E dottor Ballerini, possiamo dire che siamo un po' quello che sogniamo, e i cambiamenti dei nostri sogni ci raccontano anche come noi stiamo reagendo, consapevolmente o inconsapevolmente, a quello che ci sta capitando intorno? Ma i cambiamenti dei nostri sogni ci raccontano del cambiamento della realtà e del cambiamento che i nostri desideri hanno nell'impatto con la realtà, perché noi sappiamo che per costruire un sogno noi usiamo il materiale, Freud chiamava il materiale recente, quindi sappiamo che un sogno è costruito da un materiale acquisito tra le 24 e 36 ore precedenti. Lo chiamiamo materiale di scarto, sono quelle cose che uno non nota. Ad esempio, qua c'è una telecamera che ho notato con la coda dell'occhio, un dettaglio. Ma non la riprende, non si preoccupi. No, io ero contento se mi riprendeva. Un dettaglio irrilevante. Così rilevante, però, che adesso l'ho visto, ma non lo elaboro, tranne adesso che l'ho proprio elaborato, può darsi che stanotte sognerò una telecamera, perché inserisco nel sogno il materiale di scarto del dato reale, quindi la realtà entra nel nostro sogno e poi la trasformazione che noi facciamo di questo materiale è di plasmarlo secondo il desiderio che abbiamo, e quindi dobbiamo capire cosa ci dice un sogno. Quindi se Deborah stanotte mi sogna, vuol dire che io per lei sono un materiale di scarto? No, marginale. Sta attenta, Giulio da Trieste, buongiorno. Sì, buongiorno, eccomi qua. Poi figurati se vengo a raccontartelo adesso, dato questa interpretazione che mi ha dato il dottore. Giulia. Ascolti, a me capita un fenomeno strano. Io faccio spesso sogni lucidi, cioè sogni dove sono consapevole di stare sognando. Per la verità me li sono andati un po' a cercare, nel senso che c'è stato un periodo in cui mi sono interessato all'argomento. Sì. E volevo chiedere al dottore cosa succede esattamente nel cervello durante un sogno lucido, anche perché ho notato che spesso il sogno lucido è seguito immediatamente dopo da un sogno iperrealistico, cioè io sogno di svegliarmi e sembra una situazione assolutamente reale, realistica al massimo, ma in realtà sto ancora dormendo e quindi insomma qua ci vuole... Sembra quasi un meccanismo di difesa del cervello, per cui volevo capire cosa ne pensava il dottore. E io, lei è fortunato perché noi in linea abbiamo un esperto che riuscirà a darle una spiegazione precisa e molto chiara. Ci ha raggiunto infatti il dottor Lino Nobili. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Vedi che bella voce. Hai visto, stanotte ce la sogneremo. Perché il dottor Nobili si occupa, è responsabile del centro di medicina del sonno all'ospedale Niguarda e quindi ha questa voce bella riposata. Dottor Nobili, che cosa sono questi sogni lucidi e perché e come possiamo aiutare Giulia a capirne di più? I sogni lucidi sono un fenomeno estremamente interessante e per chi riesce anche a viverlo può essere anche molto piacevole, anche se per alcune persone poi diventa un po' faticoso. Succede, normalmente noi quando sogniamo non abbiamo un controllo, non siamo veramente coscienti di quello che succede, viviamo una realtà virtuale da spettatori, una realtà che è spesso anche un po' bizzarra perché durante il sogno la nostra coscienza non funziona come nella veglia e controlla poco gli impulsi. Sì. Esistono invece delle persone che riescono a essere in una situazione che è a metà tra il sonno e la veglia, si può anche misurare questa cosa, ci sono degli studi che fanno vedere che chi fa il sogno lucido è minimamente, parzialmente sveglio e riescono a rimanere nel bilico tra veglia e sonno e sogno e in questo modo riescono a governare e a dirigere il sogno, non devono esagerare perché altrimenti possono facilmente svegliarsi, ma possono proprio anche dirigere completamente il loro sogno, tant'è che negli anni 60, fine anni 70 si utilizzava anche questa tecnica un po' per da un punto di vista psicoterapeutico, riuscire a controllare le proprie pulsioni, far dirigere i sogni in un certo modo poteva essere anche utile, in effetti è un fenomeno molto interessante. E ci sono delle persone come l'ascoltatore che possono farlo e diventa anche una cosa estremamente, può essere una cosa estremamente piacevole, un'esperienza unica. Ecco. Dottor Nobili, la donna di denari è una domanda per lei. Gli italiani, se lei ha avuto modo di sentire anche la prima parte del programma, sono impegnati a pagare le rate del mutuo, ma non è perché lo raccontiamo noi a cuore denari, ma insomma è una verità incontestabile. Non ce lo sogniamo, no, insomma. Infatti, ma si sogna anche a rate, perché so che ci sono i sogni ricorrenti per alcune persone, ma c'è anche chi magari fa un sogno, poi lo interrompe e qualche sera dopo lo riprende? Siamo un po' collegati a quello che dicevamo prima. Ci sono delle persone che riescono a stare in bilico tra veglia e sonno, possono svegliarsi e riescono a ritornare nello stesso sogno e quindi questo assomiglia un pochino a quello che diceva prima del sogno lucido, ma ci sono anche persone che indipendentemente dalla capacità di fare un sogno lucido hanno dei sogni che sono estremamente ricorrenti e qui bisogna tirare fuori tanti altri aspetti, interpretazioni anche più di tipo psicodinamico, quello che vogliamo, però sicuramente si può sognare a rate, anche si può continuare ad avere lo stesso sogno più volte e nell'ambito della stessa notte si può ripetere o continuare lo stesso sogno, non è un fenomeno frequentissimo però, ma si verifica. Speriamo che non ci sia la banca nello stesso sogno, insomma, in questo sogno a rate. Dottor Nobili, prima di salutarle e volare a sentire che cosa succede sulle strade sulle autostrade. Molte ascoltatori ci stanno scrivendo non ricordo di sognare, però una cosa è certa, tutti sogniamo di notte, perché non certo. ce lo ricordiamo? Chiederò certo. poi la lettura anche al dottor Ballerini, ma mi dia la sua lettura da un neurologo. Allora, la prima interpretazione, tutti quanti sogniamo, questo è sicuro, più volte nella notte sogniamo, se noi facciamo, quando registriamo una persona e vediamo che entra in una particolare fase del sonno dove è più frequente sognare e la svegliamo, questa molto probabilmente ci racconterà sì. che stava sognando. Se però questa persona si sveglia spontaneamente al di fuori di quella fase, potrebbe non ricordarsi assolutamente quel sogno. Può bastare molto poco per dimenticarsi, possono bastare pochi minuti per dimenticarsi un sogno. Se uno si sveglia immediatamente dalla fase del sogno, invece il sogno rimane più impresso nella mente. Quindi, dottor Nobili, è una questione di tempo. È una questione di tempo e anche sicuramente poi di aspetti emotivi, diciamo più psicodinamici, perché certi sogni rimangono infissi e non si dimenticano mai, quindi ci sono vari aspetti, ma sicuramente ce n'è uno anche fisiologico che fa sì che la probabilità di ricordarsi o meno un sogno dipende da in quale momento ci siamo svegliati rispetto alla fase in cui stavamo sognando. Dottor Nobili, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona grazie giornata. A voi. Buona giornata a tutti. Andiamo a sentire che cosa sta succedendo sulle strade italiane. Cuore e denari. E che succede dopo che lui ha scalato la torre e salvato lei? Che lei salva lui. Benvenuti a Hollywood! Qual è il vostro sogno? Tutti vengono qui. Questa è Hollywood, la città dei sogni. Alcuni si avverano, altri no. Ma continuate a sognare, questa è Hollywood. Si deve sognare, perciò continuate a sognare. Che non si millanti che la Rosciani ha come sogno nel cassetto il principe azzurro, perché non è così. No, non guardarmi con quella faccia. Leggo il messaggio di Max che dice: sto andando da un cliente che deve pagarmi da aprile, sto sognando mentre vado da lui di riscuotere. Roberto Anedda, per realizzare i sogni molti italiani negli ultimi anni, la casa o tanto altro, si sono indebitati appunto, e a qualcuno è capitato di risvegliarsi da questo sogno in maniera traumatica, perché questo finanziamento è diventato l'incubo della propria vita, non si riesce più a pagare. Cosa succede in questi casi? Certamente è un momento di ansia notevole che tra l'altro si protrae nel tempo. Anche in questi ultimi anni abbiamo avuto un aumento delle famiglie che hanno avuto difficoltà nell'andare incontro ai pagamenti di un finanziamento o addirittura di un mutuo, che mette a rischio poi anche quel sogno che si pensava di aver realizzato, cioè la casa, e quindi magari la si deve rimettere in vendita o si deve trovare qualche maniera per riuscire a recuperare i soldi per far fronte alla rata, magari rinunciando ad altre spese o rinunciando al pagamento di qualche altro finanziamento, perché ci sono anche molte famiglie che hanno più di un finanziamento in essere. Infatti, per diverse poi magari motivazioni. Faremo una precisazione anche su queste situazioni. Allora, per chi ha il mutuo non riesce a pagarlo, negli ultimi anni sono state istituzionalizzate delle iniziative da parte del sistema bancario, e parliamo della moratoria dei mutui, esatto, che poi è diventata il fondo di solidarietà gestito dal Ministero dell'Economia. Per chi ha invece un prestito più piccolo, ma anche la rata piccola è faticosa da pagare, che cosa può fare? Ad esempio, per chi ha più di una rata si può ricorrere al cosiddetto consolidamento del debito, cioè un prestito che permetta con un finanziamento unico di chiudere tutte le varie fonti di ansia legate ai singoli finanziamenti e avere se non altro un'unica rata, possibilmente una più grande semplice rata, un ratone. In questi casi si tende ad allungare il periodo di rimborso, e tra l'altro ad un tasso più basso, di modo che comunque alla fine la rata mensile finale o l'ammontare finale che io devo utilizzare in un mese per far fronte a quei pagamenti è più basso e mi permette di recuperare un po' di quella serenità che invece l'ansia da pagamento e da rimborso mi ha generato. A proposito di ansia da pagamento e di incubi, io credo che ad aver maggiori incubi in questo periodo siano proprio i lavoratori autonomi, no? Sì, effettivamente sono tra le categorie più colpite anche nelle restrizioni del credito. Per cui immaginiamo non solo, abbiamo avuto gli esempi anche di chi ha chiamato oggi, qualcuno che voglia avviare una nuova attività, ma chi invece ce l'ha e a fronte di una restrizione del proprio giro d'affari, ma alla necessità lo stesso di mantenere se stesso, la propria famiglia, la propria attività, si trovi costretto magari a chiedere dei finanziamenti che però purtroppo sempre più spesso gli istituti di credito si trovano a rifiutare o a ridurre. Esatto, non solo, il lavoratore autonomo non ha diritto neanche a chiedere la sospensione del mutuo se fosse in difficoltà a pagare, quindi anche questa è sicuramente situazione da risolvere a livello alto. È una situazione veramente da incubo, dottor Ballerini, sicuramente lei avrà dei pazienti che portano nel suo studio queste difficoltà, come li aiuta a ristrutturarsi? Il primo aiuto che si può dare non è l'aiuto immediatamente concreto sul cosa fare, ma è un reale aiuto quando il soggetto si chiede come sono finito qui. Allora, capire e sapere identificare se c'è stato un errore di valutazione, perché a volte è davvero il caso che ha portato così, a volte c'è stato un errore di valutazione. Allora, riuscire a identificare se ho sbagliato qualcosa e saperselo dire cosa ho sbagliato, permette di rimettere un po' di ordine ai propri pensieri, evitare che lo si rifaccia e trovare anche quell'energia per superare una situazione sapendo che c'è sempre una soluzione. E quando uno si dispera pensando che non ci sono soluzioni, sta compiendo un altro errore, perché esiste sempre una soluzione e qualsiasi atto sciagurato è un atto sciagurato perché non tiene conto che da qualche parte una soluzione c'è, bisogna attivarsi per trovarla. Nel caso dei prestiti volevo dire che per esempio c'è chi non ottiene un finanziamento secondo canali regolari e nella disperazione cerca canali invece non proprio leciti o legali, e nel caso appunto che stiamo citando Roberta Nedda può capitare di incappare appunto in qualche soggetto poco raccomandabile. Per chi finisce, sì dottore? No, no, diciamo che non sono soluzioni queste. Non sono soluzioni, certo, però la disperazione in questi casi porta anche a questo. Che cosa si fa in questi casi a Nedda? Perché non è facile dire di no. Ah, purtroppo no, sono d'accordo con il professore, innanzitutto bisogna cercare di evitare di cadere nella disperazione, perché si perde razionalità e si finisce proprio per cercare le soluzioni peggiori, da questo punto di vista, anche se in quel momento magari sembrano le uniche. Allora, se si ha una difficoltà nel rimborsare un prestito, allora meglio da subito andare a parlare con l'istituto di credito, far presente le proprie difficoltà, perché in genere l'istituto di credito non ha nessun interesse a creare ulteriori difficoltà al cliente, piuttosto cerca di, insieme al cliente stesso, mettere insieme un possibile piano di recupero, quindi recuperare quella razionalità e quella speranza, quella visione positiva che permetta poi di andare avanti. Per chi fosse già caduto in determinati meccanismi oscuri e negativi, bisogna invece cercare di a qualunque costo liberarsene al più presto, dove a qualunque costo non vuol dire cercare un altro di questi poco di buono, diciamo così, o comunque soluzione certamente non positiva, per chiuderne una e aprirne magari un'altra ancora peggiore. Certo. 800 24 00 24, numero verde per superare la barriera rosa, da adesso sino a chiusura della nostra trasmissione intorno alle 12:28, quindi scuola di risparmio che cara mia, vi offrirà spunti per intervenire. Incubi e nightmare per Nicoletta Carbone. Ma ad ogni, vogliamo anticipare perché vorrei in questo momento chiedere anche agli amici da casa che mi stanno seguendo di aiutarmi a mettere un po' in difficoltà quel professor Lupotto, che non me l'ha raccontata tutta giusta. Ti ha fatto tutta l'interrogazione per capire che tipo di risparmiatrice sei, adesso lui sta cercando di capire che prodotti di investimento sono adatti a te e ta-ta, la legge di stabilità che cosa fa? Ti tassa il risparmio. Quindi Lupotto, non è una novità di quest'anno, però Lupotto dovrà rispondere di tutto questo. E quindi aiutatemi voi, scatenatevi, superate la barriera rosa, da adesso sino a chiusura della trasmissione, ad ogni ascoltatore che riuscirà a superare la barriera rosa e a intervenire in diretta per raccontarci i suoi sogni, per aiutarmi a mettere in difficoltà Lupotto, un libro della libreria di Cuore Denari, come quello che riceverà Vincenzo, che ci chiama da Milano. Buongiorno. Buongiorno dottoressa, senta, io volevo approfittare... Io sono Nicoletta, se vuole, mi piace di più. Vincenzo. Ok, va bene. Okay. Volevo approfittare della presenza del professore, perché io un paio di anni fa avevo fatto un sogno che mi è sempre rimasto però impresso per la particolarità. Nell'87 io avevo fatto il servizio militare. Sì. Sono passati. Abbiamo mezzo anni. Secondo e vada che poi la risposta le arriva. Stringa. Velocissima. Sono passati 15 anni, quindi ho fatto anche di tutto per rimuoverlo con l'esperienza. Cosa mi è successo? Ho sognato la notte prima, una persona, un amico che avevo conosciuto e frequentato, un buon amico, sotto le armi proprio in quel periodo. Sì, ha sognato un commilitone. Bravissima. La mattina dopo me lo sono visto lì sul posto di lavoro. Io sono un dipendente pubblico. Sì. Per cui stop, fermiamoci qui. Dottor Ballerini, lei prenda nota. Noi adesso andiamo. Io vorrei dirti che sogno le donne incinte e poi il sogno si realizza e qualche amica ci rimane. Vedi tu, Nicoletta, vedi un po' te. Carmelo mi fa ciao, allora ciao. Cuore e denari. Io vendo scommesse sul futuro, qualcuna vince molto, di tutte le altre invece non mi curo. Non ci sono meriti, non c'è una gerarchia, ma solo il cieco meccanismo di una lotteria. E non posso che adeguarmi, non posso lamentarmi, se usate queste mie monete al posto delle armi. Se tutti i vostri sogni li puntate in questo gioco, vendo un'illusione in più. Nicoletta, nella prima parte del nostro programma abbiamo parlato di sogni, non abbiamo ancora completato il nostro discorso, lo faremo tra qualche istante, ma siamo arrivati fin qui, siamo arrivati al tuo incubo, la scuola di risparmio. Andiamo. Green Network Luce e Gas ti fa risparmiare davvero. Finalmente la buona notizia. Vi presenta Salva Danaio. Allora, care amiche, cari amici, iniziate a chiamarmi, a sostenermi, perché oggi dobbiamo chiedere al dottor Lupotto che cosa mi sta combinando. 800 24 00 24, abbiamo visto che abbiamo letto, perché anche noi, Deborah, leggiamo i giornali. No, ma dillo che ti sei appassionata dei temi di finanza, di prestiti, fondi di investimento, del BTP o no? Insomma, appassionata è una parola grossa. Comunque, il dottor Lupotto. Salutiamo il nostro professore. Buongiorno Gianni Lupotto, consulente finanziario indipendente, il nostro istruttore per le questioni finanziarie del portafoglio di Nicoletta Carbone. Buongiorno Lupotto. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, buongiorno. Facciamo così, prima di salutare peraltro i nostri ospiti che ancora sono in studio, vorrei già chiedere ai nostri ascoltatori se si sono documentati sull'imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie, perché questo adesso è il grande cruccio di Nicoletta Carbone. Raccontatecelo all'800 24 00 24. Arriva questo inasprimento di una tassa che era già stata introdotta lo scorso anno sui nostri investimenti, e quindi cercheremo di capire quanto peserà anche sui risultati del nostro piccolo portafoglio risparmiato. Dottor Ballerini, abbiamo ancora tempo proprio di un sogno per rispondere al nostro ascoltatore e a tutti coloro che ci hanno scritto e ci hanno parlato, perché anche Deborah è convinta di questo, che ci siano dei sogni premonitori. Sogno una cosa, il giorno dopo, pum, ci cado dentro, si avvera. Deborah sognava che la sorella sarebbe rimasta incinta, tac, la sorella è rimasta incinta. Non sognare di me, No, guarda, ecco. Ci provo però. Dottor Ballerini, è vero, siamo un po' streghetti? Abbiamo detto prima che per costruire un sogno usiamo il materiale di scarto, poi c'è stata tutta una serie di battute, ma il materiale di scarto non vuol dire materiale di poco valore, ma è materiale che in quel momento non ci interessa, per cui alla nostra attenzione non serve. Nella maggior parte dei casi, e invito chi lo fa a provare a fare questo sforzo di cercarlo, quando noi abbiamo l'impressione di avere un sogno premonitore, quindi che al mattino accade qualche cosa che abbiamo sognato, nella maggior parte dei casi, forse non in tutti, noi avevamo già qualche indizio di cui non eravamo coscienti, era il nostro materiale di scarto. Di notte ci abbiamo pensato su e allora paf, paf, e ci sembra che accada quello. In realtà lo sapevamo già. Ah, io non lo sapevo però. Detto questo, c'è una osservazione di un ascoltatore, anzi racconto una testimonianza di Piero, che ci racconta che è un lavoratore autonomo, un agente di commercio, e ha avuto la sospensione del mutuo prima casa nel momento in cui è stato in difficoltà. È riuscito a documentare la sua riduzione del reddito e quindi è riuscito appunto in questa sua impresa, che per molti invece è difficilissima con la banca. Un'ultima raccomandazione ai nostri ascoltatori. Roberto Anedda: ammettendo di avere un lavoro stabile, si ha bisogno di un prestito per rifare l'arredamento appunto della propria casa, a parte i bonus fiscali di cui abbiamo parlato ieri. Come si va in banca a negoziare per ottenere le condizioni migliori? Due suggerimenti ai nostri ascoltatori. Beh, innanzitutto, ancora prima di andare in banca, guardarsi in giro anche tramite internet, servizi anche come il nostro, per capire innanzitutto quali sono i tassi migliori, in modo che quando poi si vuole andare sia nel proprio istituto che anche da altri per chiedere ulteriori informazioni sia già un parametro con il quale confrontarsi, altrimenti ci si va assolutamente, non dico da sprovveduti, ma certo, assolutamente senza informazioni, quindi qualunque cosa ci raccontano ci può suonare, soprattutto se ce la raccontano bene, come la migliore offerta. E poi magari una volta firmato, una volta deciso, si scopre che si poteva risparmiare da un'altra parte. Quindi il consiglio è prima raccogliere molte informazioni, anche tramite trasmissioni come questa, e poi solo dopo fare i passi più concreti, quindi mai affrettarsi a firmare, tanto per firmare c'è sempre tempo. Se si aspetta due giorni non ci corre dietro nessuno. Grazie Roberto Anedda. Grazie a voi e sogni d'oro a tutti. Se sono dei piccoli risparmiatori, però possiamo salutarli, ma voi potete rimanere qua perché magari anche loro vogliono sapere qualcosa sull'imposta di bollo, sulle comunicazioni finanziarie. L'ennesimo. E poi, senti com'è graffiante questo termine, Nicoletta, ti sei già spaventata. Ma adesso guarda, vedrai che adesso tra ci saremo io. Tra l'altro il dottor Lupotto era caduto e adesso è ritornato. Dottor Lupotto? Sono qua, sono qua. Buongiorno. Eccoci. Senta qui un po', io ce l'ho un po' con lei stamattina, eh? Sì. Lei lo sa? Come mai? Perché lei mi convince di investire, mi fa tutta una serie di domande, anche un po' personali, sulla mia condizione familiare, cosa vuole, quanto vuole, perché vuole, eccetera. E sulla percentuale anche di stipendio che io posso risparmiare. Lì mi ha fatto stare in ballo più di una settimana. E le ha fatto venire gli incubi. Mi stavo quasi abituando all'idea quando leggo sul giornale, dottor Lupotto, che i soldi che io investo mi vengono presi anche dalle tasse. Leggo infatti che la legge di stabilità colpisce i piccoli risparmiatori, categoria nella quale mi sembra che, no? Va bene. Sì, come la mettiamo? Non te la prendere però così con lui, non l'ha mica decisa lui questa come cosa. Come la mettiamo? Gianni Lupotto, andiamo a spiegare allora questa imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie, come funziona e dove e quando si applicherà. Intanto la domanda sì, effettivamente sembrerebbe imbarazzante, ma mai come rispondere dei sogni notturni, quindi preferisco rispondere a questa. Perché di solito gli uomini fanno sogni erotici, è vero? Ma e con questa Lupotto possiamo anche salutarci qua, direi che non mi fornirà più la sua consulenza. Mi sono messo nel sacco da solo, diciamo che è una domanda a cui risponderei nella sessione notturna. Vedi che li fa, li fa. Ha come dire, ha girato un po' intorno ma la risposta più o meno l'ha data. Andiamo un po' invece agli incubi che lei provoca alle persone che segue dal punto di vista della consulenza finanziaria. In effetti con la legge di stabilità c'è un inasprimento di una tassazione che peraltro è già presente. Diciamo che il risparmio è stato un po' preso di mira in questi ultimi anni, da quando si portò la tassazione delle rendite finanziarie dal 12,50 al 20%, e in più è stata introdotta negli ultimi anni questa sorta di mini patrimoniale, si chiama così, si dice, si soprannomina così, ma in effetti è proprio così, perché è una tassa che viene chiamata tassa di bollo sulle rendicontazioni, ma a tutti gli effetti colpisce tutte le forme di risparmio, dalle obbligazioni alle azioni, ai fondi di investimento. In che percentuale, dottor Lupotto? Perché il tempo corre, quindi andiamo subito alle. Una percentuale dello 0,20%, almeno questa è la proposta, la legge come sappiamo è in discussione al Parlamento, dello 0,20% di ogni consistenza patrimoniale presente sui nostri conti titoli. Ha fatto bene a ricordare che è in discussione in Parlamento, dubito che ci ripenseranno su questa manovra perché, come dire, la mossa più facile con la quale fare cassa, per cui andare a prelevare sul risparmio degli italiani. E con questa piccola polemica, peraltro c'è anche una, come dire, un minimo non valicabile di 34,20 euro, per cui anche chi ha un risparmio molto piccolo, questa piccola quota deve pagarla comunque. Esatto, questo è l'ulteriore tassa che c'è sui conti correnti, del 34,20 euro fissi. Allora, Nicoletta. Nicoletta invita ancora gli ascoltatori a superare la barriera rosa perché c'è anche tempo, anzi scatenatevi e aiutatemi a tenere a bada il dottor Lupotto. Esatto. Con domande difficili. Che peraltro, siccome deve costruire ancora il tuo portafoglio, deve continuare a completare le interviste che ha iniziato 3 settimane fa, all'inizio di ottobre. Lupotto, mancavano ancora dei quesiti. Sì, ci sono ancora un paio di domande perché abbiamo analizzato di Nicoletta la situazione familiare, abbiamo analizzato appunto la sua propensione al risparmio e adesso dobbiamo completare con diciamo il terzo aspetto che sono gli obiettivi e la propensione al rischio. È come allungarsi nel lettino del dottor Ballerini, eh? Va bene, sì. Ok, sono pronte, andiamo. Allora, diciamo, la prima domanda riguarda gli obiettivi, no? Avendo capito quanto possiamo risparmiare e la situazione familiare, quali sarebbero gli obiettivi concreti che vorrebbe raggiungere con il risparmio attuale integrato dai rendimenti, dai flussi di risparmio futuri? E in quanto tempo? Vedi, parlo un po' facile, un po' difficile, ma io mi sono preparata. Vorrei poter far frequentare un master a una delle mie due figlie, perché tutte e due sono prossime alla laurea. E poi ho anche un piccolo sogno nel cassetto, glielo dico, Lupotto? certo. Vorrei anche accumulare del risparmio per quando non lavorerò più, chi lo sa, magari mi cacciano, considerando che sono freelance e non ho ancora capito in effetti quanto sarà la mia pensione, anche se Deborah qualcosa mi ha... previsto, sì, qualcosa mi hai detto. L'ho sognata, devo andare dal dottore qua. Dottor Lupotto. Sì, bene, abbiamo preso nota. Sì, questo per il momento va bene. Ho ancora un paio di domande. La prima è questa, riguardante direttamente la propensione al rischio. No? Immaginiamo di investire a questo punto, per esempio, 10.000 euro. Però. Questo capitale, inevitabilmente, una volta che viene investito, oscilla nel tempo. Naturalmente abbiamo un obiettivo di rendimento di periodo, però nel frattempo potrebbe anche andare sotto questa soglia di 10.000 euro. Sì. Allora, detto questo, quando comincerebbe il suo livello di preoccupazione o di ansia? Quando vedrebbe il suo patrimonio scendere a 9.000, 8.000, a 7.000 euro? No, non mi fare la risposta come nella prima interrogazione, che l'hai sbagliata completamente. Cerca di ragionare un attimo. Diciamo? Metti le cuffie come nei quiz di Mike Buongiorno. Tu, anche perché c'è il dottor Ballerini che come psicoanalista ti fa tutta un'altra lettura. Ecco. 9.000. 8.009, posso? Sì, sì, 8.005 è la risposta giusta. No, 8.009, va bene. Sì, ok. Quindi diciamo è un livello dell'11% più basso del livello di partenza. Okay? E volevo fare un'ultima domanda che è questa. Di solito lei dove trascorre le sue vacanze estive? Non perché vuole venire con te, non preoccuparti, non a tormentarti anche lì, è solamente magari per capire quanto spendi quando vai in vacanza. Perché sei invidiosa, perché magari è una proposta tra le righe. Allora, poi dottor Lupotto, facciamo due chiacchiere. Una parte delle vacanze le faccio con la mia mamma e il mio papà in campagna, e una parte faccio un viaggetto, posti diversi a seconda del budget. Ok, benissimo. Ecco, allora questo completa. Sto andando bene o no? Benissimo. Forse che abbiamo anche delle domande di ascoltatori, sì. Vai. Non ci sono mica i voti. Ecco, farei qualche considerazione che poi riprendiamo la settimana prossima quando finalmente costruiremo qualche portafoglio. No? Queste ultime risposte di Nicoletta ci hanno detto che lei in realtà ha due tipi di obiettivo. Uno che è di breve periodo, perché la laurea delle figlie è prossima, sì. E uno di più lungo periodo, perché la data della sua pensione è verosimilmente molto lontana nel tempo. Quindi, gentiluomo. Detto questo, propensione al rischio che mi ha citato è già una propensione al rischio elevata, direi addirittura troppo elevata per il primo obiettivo, in quanto il primo obiettivo, essendo molto vicino, molto prossimo, genera la necessità di avere poche oscillazioni di portafoglio, altrimenti non è possibile recuperare. Quindi proteggere insomma questa somma. Mentre invece per quanto riguarda la porzione da destinare alla pensione abbiamo più tempo. Ecco perché la mia proposta è la prossima settimana di presentare qualche portafoglio, magari uno adatto per gli obiettivi di più breve periodo e uno più adatto per gli obiettivi di più lungo periodo. Allora, vorrei, grazie Gianni Lupotto. Abbiamo quasi fatto pace. Ecco, infatti, ecco. Però insomma l'imposta di bollo sulle comunicazioni rimane lì e non è che nessuno ve la cancella. Volevo ricordare ai nostri ascoltatori i motivi perché stiamo facendo queste domande a Nicoletta Carbone, perché tutte le volte che abbiamo un piccolo gruzzoletto, piccolo o grande che sia, ha la stessa dignità di fronte al consulente che ci suggerisce come orientarlo al meglio, e naturalmente queste domande è corretto che vengano fatte, Lupotto, altrimenti non si sa bene appunto come gestire il meglio possibile questo denaro. Assolutamente, queste sono domande essenziali che chiunque si propone di dare suggerimenti di gestione del risparmio deve fare. Allora, c'è una domanda di Marzio da Pordenone che naturalmente si è subito incuriosito rispetto alla novità dell'imposta di bollo sulle comunicazioni finanziarie, che c'era anche già l'anno scorso, lo ricordiamo, era inferiore, ma soprattutto tutti coloro a cui è stata applicata se ne sono accorti quando questa comunicazione finanziaria è arrivata a casa, Lupotto. Sì, è proprio così. Cioè, va detto che è stata applicata anche in modo difforme dalle banche, perché dipende dalla periodicità della comunicazione stessa. Qualcuna peraltro se l'è anche, come dire, assorbita, no? Qualche banca, per trattenersi la clientela in modo tale che queste persone potessero non chiudere anche questi rapporti finanziari con il proprio istituto di credito. C'è Marzio da Pordenone con la domanda di oggi, peraltro stiamo andando verso la chiusura, ancora 2 minuti li abbiamo. Marzio, velocissimo, grazie. Sì, intanto buongiorno a tutti. Grazie. L'unica cosa che volevo chiedervi è se è giusto applicare l'imposta di bollo sulla parte eccedente 100. Sostanzialmente, se io acquisto un titolo a 100 e sul mercato dopo vale 105, 110, l'imposta di bollo si applica sul valore di mercato all'atto dell'estratto conto, della produzione dell'estratto conto. Secondo me è ingiusto, perché comunque gli interessi vengono applicati su 100. Potrei capire se me la applicano su una quota inferiore. Non capisco perché me la debbano applicare sulla parte eccedente, visto che è un valore virtuale e non effettivo. Nel momento in cui io vendessi il titolo, mi applicherebbero la plusvalenza tassata al 20%. Aspetti lì, allora, Lupotto, che ne pensa dell'osservazione di Marzio? Peraltro questa norma non brilla per equità, ma questo l'abbiamo detto tante volte anche lo scorso anno. L'osservazione è molto corretta perché in effetti il valore ad una certa data di un portafoglio titoli è il valore come se lo si vendesse in quel momento, ma non è detto che questo valore venga mantenuto in futuro, quindi è possibile anche, come suggeriva giustamente Marzio, che si paghi una tassa su un valore che poi decrementa nel tempo. Allora, stiamo andando verso la conclusione, per oggi le domande a Nicoletta Carbone sono terminate, ma ci risentiremo anche la settimana prossima con la nostra scuola di risparmio. Grazie a Gianni Lupotto, buona giornata. Grazie, arrivederci. Buona giornata, alla prossima. Allora, due domande sui nostri sogni le vogliamo completare con i nostri ospiti in studio che si sono sorbiti anche tutta la parte sull'imposta di bollo, sulle comunicazioni finanziarie, quindi premiamoli un po'. Però perché anche loro sono piccoli risparmiatori. Certo, sì, in realtà volevamo fare delle domande, non abbiamo tempo di fare alcunché. Neanche delle risposte. Grazie, grazie di nuovo a Roberta Nedda. Grazie a voi, a presto. Grazie al tuo ospite. A Luigi Ballerini. A voi. Benissimo, noi torniamo domani e li facciamo già arrabbiare i nostri ascoltatori, anticipiamo già il tema del quale parleremo. Dai, dai, vai, vai. Parleremo dell'assegno di mantenimento di Silvio Berlusconi a Veronica Lario, da 3 milioni di euro si passa ad 1,5 milioni di euro al mese e beh, insomma, c'è di che far la fame. Insomma, sposarsi conviene se poi ci si separa. Con il personaggio giusto. A domani, buona giornata. Cuore e denari.